Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Come va? Bene. Tu? Bene. Prendi qualcosa? Un caffè. Un caffè e un cappuccino, per favore. Siedi. Allora? Stai bene così vestito da sposo, bello? Pure tu stai bene vestito da sposo. No, insomma, un po' più normali. Tu è bello. Sei proprio bene. Bouquet? Sta lì. Ah, c'è? Ah. Mamma mia. Io, guarda, io non è che sto contrario al matrimonio, che non sono venuto. Solo, non lo so, io credo che in particolare proprio un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi tra di loro, troppo sì, diversi, no. Capito? Sì, sì, cioè, no, non nel senso che dovrebbe... Devo dire, questa frase di Troisi oggi farebbe brindare champagne a tutti i portatori delle visioni più avanzate rispetto all'unione matrimoniale. Buongiorno, Sansonna. Buongiorno, caro. Giuseppe Sansonna accanto a me questa mattina perché voglio osservare attraverso quello che è il punto di vista che noi abbiamo sempre considerato privilegiato. La commedia italiana che guarda e racconta gli italiani, un tema molto caro, molto nella cronaca più calda, che è quello del matrimonio e naturalmente del conseguente divorzio. Matrimonio e divorzio sono nella nostra storia patria degli ultimi decenni stati intensamente collegati tra loro. Da una parte c'era un'Italia che ha sempre pensato e considerato tuttora dice che esiste una sacralità per cui l'unione matrimoniale fra uomo e donna, strettamente riservata questa unione a uomo e donna, debba essere qualcosa che duri per sempre. Una volta che si è aperta la porta del cielo, è uscito il ditone col triangolo e ha detto voi sarete uniti per sempre. Ecco, questo deve valere per tutti, anche per chi non ha nessuna fede in quel ditone, per chi pensa che comunque l'unione fra due esseri umani sia qualcosa che se debba essere calata in una condizione di civile convivenza debba essere in qualche maniera regolata dalla legge, perché ci sono dei rapporti patrimoniali, dei rapporti nelle relazioni, dei rapporti con l'eventuale progenie. Detto questo, ogni tanto noi abbiamo delle notizie come quella che è stata data in questi giorni, il divorzio breve, sarà tutto accelerato, sarà più veloce, ma c'è sempre l'idea che comunque questa unione debba essere qualcosa scritto con lettere di fuoco, indelebile, e ci sono via via delle piccole concessioni. Sì, aspettate un po' di tempo perché dovete pensarci, meditarci, beh, un po' meno tempo, però comunque c'è sempre uno Stato che ci dice che ci dobbiamo pensare, perché lui dà per scontato che questo è qualcosa che una volta allacciato dagli uomini non debba essere mai più slacciato. Io credo che stiate incominciando a capire le ragioni per cui ogni uomo che voglia sopravvivere alle quotidiane lotte con la propria nemica debba fare come me, cioè sofitizzarsi. Chiaro? Questo è il punto. Sofitizzarsi. Uomini di genere maschile contro il logorio della donna moderna, sofitizzatevi. Sofitizzatevi! Che tranquillità! A quest'ora le nemiche sono andate a dormire. Giuseppe Sansonna, non sei anche tu dell'idea, o perlomeno vediamo questa mattina di capirlo attraverso dei brandelli di film e di commedie italiane, che noi abbiamo una visione ormai metabolizzata nel nostro DNA del rapporto tra uomo e donna, che non ci sarà legge, non ci sarà progresso sociale, non ci sarà modello che ci viene da altre latitudini che possa intaccarla. Già in due piccoli stralci di film che adesso ci commenterai l'abbiamo visto. Troisi che elenca il luogo comune, l'apparenza, il matrimonio come indicatore di status sociale. Più siamo logorati, più siamo macerati da questa sorta di iconografia fatti di bouquet, di fiori d'arancio, di limousine prese in affitto, di donne panzone vestite con i fiocchi, di uomini burini con il tight, di spose con le caviglie grasse e il vestito, il velo, le scarpe col tacco, di bambini orrendi che tengono lo strascico. Ecco, più queste cose ci fanno orrore, più in realtà ripercorriamo questa sorta di cammino che sembra impossibile a essere alieno dalla nostra vita. Prima ho intrasentito un lapsus strepitoso che hai fatto parlando del matrimonio come felice connivenza, cioè evidenziando la natura criminale poi dell'unione coniugale di fondo. Qui Troisi... È un'associazione a delinquere. Un connubio appunto criminale, criminoso, che viene perpetrato anche dall'istituzione, che lo bacia dall'alto. Parlano due persone sposatissime da millenni. Esattamente. E quindi il paradosso anche della nostra esistenza, se vuoi. E comunque Troisi lo evidenziava abilmente con la solita vena poetica, delicata, ma molto profonda, molto acuta. In Pensavo fosse amore invece era un Calesse del 91, in cui appunto evidenzia come un uomo e una donna siano le persone meno indicate appunto al matrimonio, e quindi loro due vestiti, lui e Francesca Neri, in questo bar che si svuota con un'inquadratura bellissima, un lungo piano sequenza, rimarranno soli, vestiti da sposi, e quindi rinunceranno al matrimonio, ma si vedranno la sera per una pizza, per un'uscita, cercando di uscire dall'istituzione, dall'inchiodamento, l'incassamento nell'istituzione coniugale, e invece tornare a una vita più fluida, più libera. Dopo invece abbiamo sentito la Totò, che in Totò e le donne teorizzava l'unica via di scampo, secondo lui, al matrimonio, ovvero costruirsi una soffitta, soffitizzarsi, come dice appunto, e poi alla Calindri lo usa come antidoto contro il logorio della vita moderna, si mette a fumare il sigaro, a stendere i piedi sul divano. Dove tutto quello che sembravano i piccoli piaceri indispensabili a essere felici, che però per principio assoluto il matrimonio gli nega. Perché? Perché deve essere sempre un aspetto punitivo, come dire: ti sei sposato, adesso buon per te, come dicevano noi vecchi amici, non ti sposare mai, vecchi amici, diciamo, ma perché tu sei sposato, c'è 15 figli, sei tutto il giorno con tua moglie, perché ci dici non ti sposare mai? Eh sì, perché c'è questo l'incubo di appunto ritrovarsi una Velinchi sformata, ingrassata e gigantesca, un po' da vignette del Marco Aurelio, come accadeva in Totò le donne. E lui, appunto, Totò si rifugia su e è devoto al santino di Landru, lo sterminatore di donne. Insomma, questo. Ora che il sacro vincolo tramite il Santo Sacramento vi ha uniti nel nome di Cristo, lasciate che il vostro officiante, ma io direi anche il vostro amico, ma io direi anche per quanto concerne il caro Giovannino, il tuo caro zio, dica due parole, due dettate, ahimè, dalla vetusta saggezza e dall'amore che ha sempre nutrito per voi questo mio povero cuore. Vi conosco entrambi fin da bambini, quando giocavate in quel cortile pieno di ghiaia e quando avevate le ginocchia sporche di polvere e le mani impiastricciate di cioccolate e di marmellate di visciole, mi pare. È chiaro che in base a queste premesse mi è fin troppo facile prevedere per voi un futuro sereno, un futuro positivo, un futuro meraviglioso, sempre nell'insegnamento del Cristo. Ora preghiamo tutti quanti. Ecco, questo è uno stralcio di un'epica sequenza di due film, perché in realtà sono due film, sono I viaggi di nozze di Verdone, che poi dopo aver rappresentato una serie di tipologie tipiche di disastri matrimoniali lo riprende in una cosa in bianco, rosso e Verdone, sì. Grande, grosso e Verdone. La grande, grosso e Verdone, in cui la coppia dei due coattoni saranno sposati, poi si rivedono con lo psicanalista che dice: st'unione deve rimanere insieme, sta coppia deve essere rimanere insieme. Anche loro hanno naturalmente la crisi, perché sono moderni, anche sono due coatti, quindi devono avere anche l'aspetto di crisi. Ecco, mi spieghi perché, poi mi parli del film di Verdone, abbiamo mai una tipologia tipica di maschi e femmine accoppiati nel nostro film? Uomini sempre cialtroni, sempre schifosi. Le donne sono di due tipologie: l'uomo è sempre schifoso, solo può essere schifoso pantofolaio o schifoso puttaniere, a seconda, diciamo, della combinazione. La donna è come hai detto te, o Aveninchi, ciabattona, megera, infame, col mattarello sempre nascosto, o è zoccolissima, infermiera dell'ospedale militare, dottoressa della clinica del pronto soccorso e via dicendo. Com'è non riusciamo a uscire da un macchiettismo generale, tanto che lo abbiamo incarnato noi stessi? Beh, questo, come sappiamo bene, è un male endemico dell'Italia. Appunto, i ruoli sono quelli della commedia dell'arte, incastratissimi. Quindi l'istituzione matrimoniale deve sempre esistere con la sua ipocrisia, e poi ci devono essere queste scappatoie, appunto, che sono quelle del rapporto fedifrago, in cui lo spettro di Banfi aleggia sempre, insomma, siamo sempre lì con le mogli al pepe, le amanti al peperoncino, eccetera, eccetera. Non c'è scampo da questo. Non c'è tutto scampo. Il B-movie italiano è basato su questo, su mariti insoddisfatti, mogli terrificanti e alternative oniriche, impossibili, semidee, insomma, divine. Susanna e i vecchioni, appunto, è sempre quello il tema biblico dei vecchioni che viscidamente si protendono verso queste ninfe. Paolo Verdone invece è entrato più nel vivo, ha sempre creato degli stereotipi, se vogliamo, delle macchiette, però è entrato in situazioni molto più realistiche. Beh, qui abbiamo ascoltato appunto il parroco che è parente dei due sposi e evidenzia quanto sia una litania funebre fondamentalmente l'omelia matrimoniale, no? C'è questo senso di noia polverosa, di uggia, che già entra dal momento in cui ci si... L'elencazione di virtù inesistenti, aver giocato nella ghiaia del cortiletto, che è una condanna, vi conoscete da tutta la vita, pensa che tristezza. Questo gozzano dozzinale che viene spacciato lì il giorno in cui loro vengono imbalsamati per sempre, come i figurini sulla torta di panna, ecco, sono quello in fondo, si rispecchiano in quei due pupazzetti. Non lo puoi immaginare cosa vuol dire diventare padre. Non ci dormi alla notte, sai. Lo so. È una cosa meravigliosa. E tu non ti vuoi sposare, è proprio dai, un fesso, sai. Io non sono mica fortunato come te, sai. Cosa credi? Tu sei stato veramente fortunato a trovare una donna come Regina. Ma poi i bambini, capisci? Non puoi capire cosa significa aspettare un bambino. Io lo credo. Oh, cosa fai? Mi mangi la mano? Senti un po', ma non è un po' piccolo qua, eh? No. Oh, io sto benone, guarda. Mi hanno messo il televisore, pure il telefono. Che cavolo mi serve poi? Io non lo so. Qua siamo in un altro ambito, Giuseppe Sanson. Questo è il 1963, l'ape regina di Ferreri, che veniva ingiustamente accusato qua e là di misoginia. Invece lui era complessivo, era misantropia, cioè lui aveva individuato cosa sarebbe diventato proprio il legame matrimoniale. Il maschio rampante, rapace, un po' sordido come Tognazzi, che poi decide a 40 anni, che all'epoca era un'età istituzionale da commendatore, di sposarsi, e si sposa con l'illibata Marina Vladì, bellissima, che lo riduce a fugo e lo fa morire in un angolo della casa dopo essere stata ingravidata, e lo lascia appunto ridotto alla sua essenza. La funzione è stata assolta e quindi via, esce di scena morendo, non avrà neanche posto nella cappella di famiglia. Questo è un po' la profezia, l'immagine nitida e lucida di Marco Ferreri. Beh, legata agli anni, era una sorta di ostentazione dello spauracchio dell'esistenza borghese, che agli anni ancora ci si illudeva che ci fossero i modelli alternativi che ancora stiamo aspettando. Sì, appunto, invece lei ha questa vestaglietta, non lo fa per piacere mio, ma per fare un piacere a Dio, per essere ingravidata, questo è po'. Melog, cronache meridiane. E finalmente cominciarono le lettere anonime. Ad Agramonte la lettera anonima è una forma di prezioso artigianato. Si comincia da bambini con i fogli di quaderno, fino ad arrivare ad esemplari pregiati, vergati da mani maestre. In quest'orgia di accuse, di beffe, di diffamazioni varie, eravamo stati accomunati tutti. Disonorato non ero più soltanto io, ma tutti noi di casa Cefalù. I diretti titolari e gli indiretti, associati e discendenti. E persino le generazioni future, in qualche modo imparentate con Cefalù, videro minacciata la loro stessa esistenza. Insomma, proprio tutti quanti, compresa la serva. Comunque per me quelle lettere erano altre. Stiamo con Giuseppe Sanson facendo una rapida ma profonda rassegna di quella che è la commedia italiana e come ha rappresentato l'italiano di fronte al problema del matrimonio, della sua indissolubilità. Divorzio all'italiana è il film chiave di tutto questo. Pensa come è datato e quanto oggi sarebbe diverso la lettera anonima attraverso i social network, come protagonista potrebbe oggi facilmente creare i presupposti per mollare la moglie. Sì, altro che anonimato, oggi sarebbe tutto visto, stravisto, sezionato, amplificato dai social network, invece qui... Qual era il paradosso raccontato in questo film? Lui per uscire da una condizione matrimoniale, in questa Sicilia appunto paludata e piena di rituali antichissimi, deve mostrarsi cornuto, essere ratificato come cornuto, e poter accedere alla possibilità del delitto d'onore. Quindi creare le prove di un adulterio da parte della moglie. Sì, sì, un adulterio che gli possa permettere il delitto d'onore e spacciare e consegnarsi alla già fedifraga però Sandrelli, che come vedremo nel finale già solletica col piedino delicato il marinaio che le accompagna in crociera. Quindi comunque... Sì, lui sarà incapricciato di una mezza parente, sì, di una ragazza, vabbè, e quindi vuole liberarsi della moglie, baffuta, orribile così. Quindi... recupera un suo antico spasimante, una cosa, figura tristissima, e io lo rimetto, il grandissimo Leopoldo Trieste. Leopoldo Trieste, che fa sempre parti comunque mestissime, era bravo nel rappresentare la mestizia, E li metti vicini sperando che lei alla fine ceda e lui quindi può avere possibilità di fare il famoso divorzio italiano, cioè di farla fuori. Certo, tutto il paese assiste, quindi lo tempesta di queste lettere anonime che appunto lo giustificano nel ruolo di vendicatore. Finalmente sarà libero di essere nuovamente realmente cornuto con la Sandrelli. Questo è quello che Germi da genovese osservava in questa Sicilia, che anche lì ha degli stereotipi, però anche una vitalità e una sua acutezza da commedia velenosa molto interessante. Oggi il paradosso è che ci dicono gli avvocati matrimonialisti, che in realtà la prima causa di frattura in un'unione stabile è qualche messaggio abbandonato in un social network che riveli malandrine frequentazioni. Allora andava costruito faticosamente attraverso lettere su lettere scritte, pubblicate, divulgate. Oggi sarebbe semplicissimo, basterebbe farsi un finto account su Facebook, mandare alla moglie un po' di messaggi con delle foto di culturisti o nerboruti ragazzoni dicendo: ecco, vedi, questa è la prova. Bocca baciata non perde ventura. Ma io vi dico, parafrasando un testo ben più alto e ben più sacro, chi guarda una donna con desiderio ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva, lei, piccola e povera creatura del sud, avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, sacra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva così, come un incubo incessante. Quindi c'è tutto. Ritorna l'idea nostra, che abbiamo sempre condiviso, che c'era più intrepidezza in un certo cinema di quanto ce ne fosse nella letteratura, nella narrativa, nella pubblicistica, nei discorsi della politica, degli intellettuali, dei maîtres à penser. Guarda, il ventre condannato alla dolce all'atroce delizia della maternità. Cosa è accaduto qua? Qui siamo sempre nell'ambito di Divorzio all'italiana, in pieno tribunale c'è l'immenso grande attore ottocentesco Pietro Tordi, che roboante fa questa aringa in cui parla appunto di questa donna fedifraga che ha reagito col delitto d'onore. Quindi ne descrive tutta l'epopea per arrivare appunto all'epica epopea che la conduce a vendicarsi delle sue corna e quindi a uscire. Sì, non dobbiamo dimenticarci che epoche in cui sembrano epoche civilizzate, ne parliamo come fosse qualcosa che lambisce la nostra vita, coglie in pieno la vita dei nostri genitori, in cui era lecito uccidere una persona se colta in flagranza di adulterio. Quindi in realtà forse gli ascoltatori più giovani non riescono a capire la potenza di questo, è che in realtà se tu creavi delle prove fittizie in un adulterio potevi ammazzare la persona, certo, e ne uscivi abbastanza bene. Era un paese civile, fino agli anni 70 è durata questa cosa. Pochissimi anni di galera, poi ripristinato alla vita sociale. E appunto tutto questo è avvolto da quest'epica letteraria molto zoliana, in cui tutto appunto è giustificato, perché è giustificato dalla bella parola, dal bell'eloquio di Pietro Tordi, del grande avvocato. Ecco, questo accadeva. Mia, vieni qui. Non posso voltare la testa che tu subito prendi la fuga. Vieni qui, Mia. Se non ti sento vicino, lo sai, sono come smarrito. No! Come no? Ma tu ti allontani sempre. Sei mia moglie, devi stare con me. Lo sai che vorrei affogarti, davvero. Affogare mia moglie. Ah, non credo che lo farai mai. Ah, non credi? Ma io lo faccio senz'altro, guarda. Ma non per affogarti. Lo faccio per scherzo. Per vedere quanto resisti sott'acqua. 6, 7, 8. Non voglio morire, Igor, no! 9, 10, 11, 12, 13, 14, ti mando tutto sotto, guarda. Adesso ti mangio, un po' alla volta ti mangio tutto. Vuoi proprio affogarmi, non voglio morire, Igor, non voglio morire. Ecco, vediamo di spiegare il contesto, che per radio sembrerebbe di assistere a una sorta di omicidio in diretta. Questi sono gli anni 90, immaginati negli anni 60, sempre dal solito profetico Marco Ferreri. Questo è l'episodio di Marcia Nunziale e la famiglia felice. Cioè, nell'isola di Giannutri, questa isola sperduta e meravigliosa, incontaminata, c'è Tognazzi con questo pizzetto da tribuno che sta affogando una bambola gonfiabile, che è la sua nuova moglie, appunto lui, di cui fa anche il ventriloquo. Allucina un delitto che in realtà vorrebbe compiere. Vorrebbe compiere, ma è un giochicchiare con questo strumento di gomma. Momma, che è sua moglie. Allora, ed è felice, tutti sono felici in quest'isola, perché anche le donne hanno dei mariti di gomma, hanno dei toy boy in gomma pura, però il momento di crisi verrà appunto profilato quando arriverà un uomo con un modello più avanzato di androide, è un Blade Runner fatto a Giannutri da Ferreri negli anni 60. Quindi c'era già una tendenza al cyborg anche nella nostra narrativa, immaginando che il problema radicale, viscerale, insolubile di questa sorta di meccanismo ineluttabile nel DNA dell'italiano, che deve comunque accoppiarsi e sposarsi con una persona che non ama, che non vorrà, con quale non vorrà dividere la vita, e tenersela per tutta la vita, e poi elaborandolo in mille scellerate maniere, come l'uccisione rituale della bambola che rappresenta il coniuge. E l'anima anche, gli mette le sue parole in bocca, gli costruisce una personalità, e questo appunto la solitudine estrema paradossale che Ferreri profetizzava. Ecco, questa mi sembrava la maniera migliore per concludere la nostra riflessione e per non lasciare che sia soltanto la cronaca, soltanto il commento degli osservatori a dare una traccia di sedimentata esperienza riguardo al rapporto di coppia, al matrimonio, alla fine del matrimonio, all'inizio dell'amore, alla fine dell'amore, a tutto quello che poi avremo modo di parlare e celebrare in maniera diversa, ma sia anche una sorta di testimonianza storica data da questi esseri profetici che ci hanno visto, ci hanno guardato, ci hanno osservato, e ogni volta che li revochiamo ci raccontano in maniera più implacabile. Grazie Giuseppe Sansone.